li ho cucinati, sentivo un po' di odore di ammoniaca, cioè strano, li ho messi in acqua per fare il solito lavaggio che solitamente fa le gambe, li ho puliti, tutto quanto, cucinati, e domani peggio che mai. Quella era la mamma. E i gamberi bisogna stare attenti, bisogna togliere l'intestino sempre. Quella era la mamma. Chi è quella mamma? Chi è? Sì, sì, la mamma, magari. E chi è? Lo ascolto un po' bacino, sicuramente è lontano, o Porto Torres. Non lo so, io non l'ho riconosciuto, se vuole entrare, avanti. Non è a voi, dai. Gianni? Oh Pino, però questo è il prurito, come che fosse un'allergia. Però se tu non sei allergico al mollusco, magari è allergico a qualcosa che hanno preso nell'acqua, perché ormai già l'hai visto che è tutto pieno, ogni tanto o batteri fecali o metalli pesanti, benzene, c'è di tutto nell'acqua di mare ormai, e quindi hai beccato l'allergia nel giusto e ti ha fatto reazione. Sì, infatti, sono inquinato, una cosa è certa, le cose crude non si devono più mangiare, perché guarda, quelle lì sono le prime che ti fanno male. E anche lui se che no. Dai, vi saluto, volontà lì che sto andando a portare a taglio che sta lamentando. Ci sentiamo, buona serata a tutti. Ciao Gianni, e infatti tutti quei molluschi limi non bisogna mai mangiarli crudi, a chi è un macello. Vabbè, le ostriche a me già non mi piacciono, la giumagna di una voce non ne mangio più. Ciao Gianni, alle prossime. Ciao Fra, ciao a tutti. Ciao Gianni, ciao, buona passeggiata. Grazie, ciao Tito, ciao, ci sentiamo, ciao ma. Va bene ragazzi, dai, sono entrato a salutarvi, che così almeno adesso mi preparo per uscire a prendere a mio figlio, quindi devo, stavo temporeggiando così in quel Rix e poi sono entrato a salutarvi. Va bene, dai, riprendi, va qui, aspetta solo e poi me ne vado. Sì, buonasera, comunque sono Gavino e sono entrato, dai, a fare... Ma non riprende nessuno. Ciao Tino, buona questa greca, le prossime. Aspetta, buonasera. Tino, sta parlando Gavino. Gavi, forse non ti ha sentito Natalino. Ciao Gavino, comunque, quindi l'ho azzeccata a Porto Torres se non sbaglio. Saluto Tino, dai, un abbraccio, grazie per essere entrato così a salutarci, alle prossime. Riprendi Gavino se mi senti. Sì, vi ho sentito, dai. No, sono entrato anche a salutarvi e va bene così. Non so se mi copiate, però dai, un saluto a te. Marco, a Natalino, che fosse la sua. Sì, quella era la mamma nei gamberi, mi stavo drogando. Sì, mi ascolta un po' bassino, sì. Non è una zona buona per me. Forse Natalino, non so se ti sta ascoltando. Natalino, ascolti a Gavino. E adesso sì che l'ascolto. Ciao Gavino. Lo squelch è troppo chiuso e non riuscivo a sentirlo. Ecco perché sono entrato così in contropiede. Mi deve scusare Gavino, ma non lo sentivo. Adesso già lo sento. Vabbè, ma c'è ancora l'antenna sotto il porticato. Ma lo senti o no? Vabbè. Natalino è, ciao Gabi, Natalino è. Sì, lo sento Natalino, lo sento, sì, non ho problemi a sentire a Natalino. Anche a te Marco ti copio bene, se tutti e due segnale 9-10. Ehi, no, perché gli hai chiesto una cosa e non risponde Natalino. Quanto ti arriva Gabino, per curiosità? Qua è praticamente 8, e... 8, classico segnale. Io poi devo Gavino, non fa testo perché sono aiutato, dai. No, io lo sento bene a Gavino. Non lo sentivo perché avevo lo squelch troppo chiuso. Capito? Mi ha chiamato Roberto, io credo stava chiamando a uno, a un altro, non a me. Capito? È per quello che non ho risposto. Ehi, ma Roberto non mi sente perché Roberto ha l'antenna sotto le tegole. Un cappa. Sì, ma Roberto chi? Quadrato? Chi è l'altro che c'è in ruota? Forse stai dicendo a me? Sì, chi è? Ricordami il tuo nome, scusa. No, io sono Franco da Sassari. Scusa Franco, tu forse non mi copri perché ancora hai l'antenna ancora sotto il porticato, così è, sotto le tegole, come ce l'ha? ancora lì, sotto il cornicione. E allora è per quello, dai. Va bene, dai, sono entrato a salutarvi, visto che c'era anche l'amico, il mio amico Tino. Ci sentiamo alle prossime, ciao, buona serata, buona cena a voi, al Correa familiare, tante belle cose. Qua Joker vi saluta dalla, dalla città tra Sorso e Porto Torres, buonasera. Ciao, ciao Joker, allora. Alle prossime, grazie anche a te per essere entrato a salutarci. Avanti, Natali. Ciao Joker, grazie per essere entrato a salutarci, alle prossime, avanti Marco. Ciao Gabino, ben entrato, ci sentiamo in altre occasioni, dai, una cosa, se sei ancora in online, noi puoi guardare il segnale che ti faccio un passaggio. 9 e 5 a picchi positivi, 9:10 Marco. Sia tu che Natale. Aspetta, no, guarda, aspetta, nudo e crudo, 3 watt. Segnale 8, radio 5. L'antenna stava sparellando e non ho capito se ci abbiano addossato cose metalliche tipo pesi in ponteggio in prossimità dell'antenna e le stazionarie erano salite oltre 2 e poi dopo quell'episodio si è rimesso tutto a posto, dai, quindi stavo pompando per quello, per dare un po' di pressione nei tubi. Ok Gabi, di nuovo buona serata, buon tutto, entra quando vuoi, ciao. Ciao, buona serata a tutti quanti, ci sentiamo alle prossime. Marco, con 2 vasi sono io. Ehi Natalia, ma non sai perché lo faccio? Io per dare un po', te l'ho detto, per colorare tutto che stia andando bene. Perché se c'è saturo vuol dire che c'è l'antenna che dà problemi. E poi anche per farlo funzionare un po', mi sennò è tutta roba ferma questa. Ferma da mesi, da settimane. A proposito, ma voi state entrando di sera? Sul 10 o no? Certo che stiamo entrando. No, io no, eh. No, allora la colpa è mia. No, Natalia, la colpa è mia allora, perché a parte che c'era 2-3 giorni che avevo il cavo staccato, proprio staccato, perché dovevano passare al terrazzino gli operai e era un macello, capito, col cavo in mezzo, lo calpestavano, ci strampavano in mezzo, prima che me lo tagliano anche loro, gli ho svitato il barilotto e ho liberato il terrazzino, dai. Fatto bene Marco, dai. No, già stavamo entrando noi, però se non vi decidete di entrare più spesso è un macello, perché c'è poca gente. Ma cosa, Lucas ha venduto tutto in blocco e quindi non so se ne ha apparato per entrare. Luca Del Monte. No, Flipper. Ha venduto tutto in blocco. Peccato, qui va bene Luca, Una bella trazione aveva, una bella antenna sicuramente. E ha venduto 2 4 40, c'aveva il Colt, il Midland 48, Colt aveva il ricevitorino e ha venduto un bel po' di roba e non so se adesso c'ha qualche apparato per poter entrare. L'antenna ce l'ha, però tutto il resto l'ha dato. Vabbè, a volte ritornano Vabbè dai, mi sa che vi saluto, è ora di preparare qualcosa per cena, dai. Ciao Natalino, ciao anche a te. Non mi viene il nome adesso. Marcolino, cavolo. Un abbraccio a tutti e due e alle prossimine. Ok, riprendi Marco. E io Franco, dai, ci sentiamo quando capita, quando mi appoglia. Ogni tanto Natalino ha detto, entro, saluto, gli do la benedizione e chiudo, questo è Natalino. E hai il suo conto, buone di rugoletto bianco e fermo prima. Mentira, come tragico di coso, di Antonello, mi. Grandissimi. Buonasera, bella scucciti tutti. Dai, ciao ragazzi, riprendete, ciao ciao. Ciao Fra, ciao, alle prossime. È logico, Marco, io ve lo dico, sennò va a morire proprio questa frequenza, non entra più nessuno e alla fine chiudiamo tutti. Ogni tanto, sa cosa voglia, come dire, da parte mia, vabbè, ce n'è poca, ce l'ho per qua sempre, anche adesso mi sta chiamando, prima mi dice una cosa, poi mi richiama e continua a farmi piccare, devo andare avanti e indietro. No, lo sa, e poi quindi alla fine non fa, perché mi rilanciano, non rispondo e non c'è il tanto. Ciao Antonello, caro. Ciao caro, ben sentito, salutori. E tu come va? Si tira avanti? Mal di denti, insomma. Già da 5 giorni, figura. Poi, vabbè, sto facendo visite mediche, le ultime, meno male. Le balle piene. Capito? Fare queste visite da un coso all'altro. E poi il resto va tutto bene, perlomeno. Ah, per lo più o per lo meno? Sì, per lo meno, dico, sta tutto bene per il momento ancora. Grazie a Dio. Sì, ascolta, quel mezzo elettrico l'avevi messo in funzione oppure ancora no? Mezzo elettrico, allora, Daniele ha ordinato le batterie, me le ha regalate. In pratica dovrebbe arrivare venerdì mattina, quindi così aggancio le batterie nuove e lo provo, perché con quelle vecchie non accendere meno, capito? E poi farò un giro di prova, speriamo bene, anche perché non è un motorino, capito? È una cosa che va elettrico, c'è il freno motore direttamente dalla batteria, quindi no. Mi tocca fare una specie di esperienza nuova, ora non è come usare il motorino a benzina. Io invece ne voglio trovare uno a benzina di motorino. Te la prendi tu, vabbè, alternative non ce n'erano molte, Antonio, perché tu non possedendo patente è un peccato quello, è un peccato. Se no, vabbè, c'era una persona che aveva trovato, gli hanno praticamente regalato uno di quelli coperti, motore 50 col targhino, però quello significa che lo devi assicurare e devi pagarti l'assicurazione, per dire, di un 50, che è un beh. È quello che rovina quella categoria, capito? Se no era tutto coperto, era con una macchinetta, con una smart, con un coso, però col motore 50. E la marca è Aixam. Praticamente sono quelle che vende De Villa, macchinette 50 con un motore 50 termico, non so se sia 4 tempi o 2 tempi, quello non l'ho chiesto, e la sta vendendo perché a lui le hanno data ma non ne usa di quella roba. Ah, capito, sì, vabbè, ma io non ho voglia di spostare 500 euro di assicurazione qua. È una cosa del genere, capito? Io questo scooter elettrico e utilizzo questo qui, intanto mi serve solamente per andare allo spin, vado allo spin che c'è via Verona e vi faccio la spesa lì, perché lui dove la roba costa di meno. Qua sembra diventato coso lo spin, una farmacia di tutto. Via, Natali, ti voglio chiedere una cosa, se lo sai, ma quei mezzi 50, no? Coperti con la targa, insomma, col targhino 50, li possono guidare tutti o ci vuole, anche se maggiorenne, un patentino? Sì. Il patentino ci vuole. Ma il cacchio, anche se sei maggiorenne, quindi è inutile, anche Antonello non lo potrebbe nemmeno usare, è quello che dico io. Se non ha il patentino non lo può guidare, no. Ma lui ha cercato. Mamma mia, che palle, è cambiato tutto, cioè sta cambiando tutto in peggio. Io, vabbè, grazie, quando ero giovane il motorino 50 non esisteva né assicurazione, né targa, non esisteva la targa, era un paradiso, nemmeno l'obbligo casco, vabbè, io certe volte fuori città lo mettevo per la mia sicurezza personale, certe volte anche in città, della tutta, caschetto jet, però era un paradiso, era come una bici, adesso, mamma mia, stanno complicando all'inverosimile le cose. Addirittura adesso le targhe le metteranno, questi targhini poi di Chechia, non so che targhe siano, sui monopattini, qui in cui l'assicurazione più il casco, e a quel livello te ne vai, ti pigli lo scooter a quel livello. Vedrai il crollo di vendite che avranno quei monopattini. No, ma adesso quei 50 che stai dicendo tu hanno il libretto come quello della macchina, bisogna fare il passaggio di proprietà, hai capito com'è? Non è più quel librettino che ti davano, che non c'era targa, non c'era un cazzo nella moto. Ma lui deve assicurare, deve avere un gatto. Il libretto è come quello che è della macchina, uguale. Perché io ce l'avevo, l'Aprilia, te lo ricordi che avevo lo scarabeo? E aveva il libretto come quello della macchina, oltre la targa. Sì, cacchio, io ero rimasto al libretto del 50, il libretto al portatore, mi. E quindi niente, e quindi se prendi quella roba 50 usata, di chiusa, no? Quelle che ti ho detto Aixam, devi fare il passaggio di proprietà, l'assicurazione, no, non vale più la pena allora, non vale la pena assolutamente. Io sono rimasto indietro come regolamentazioni. Per carità. E infatti io, perché me lo voglio prendere il 125, un motorino ce lo trovo, proprio per quel motivo lì, perché non ne vale la pena di avere il 50, a parte che paghi di assicurazione un botto. Sì, per i 50, perché lo dicono, ma è una fascia che più incidenti, perché li usano i giovani, no? Però il discorso è sempre quello, dovrebbero fare la fascia di età. Se io sono assennato adulto, non è perché che pago gli incidenti fatti dagli altri, e loro non gliene frega niente. Ti dicono, se lo vuole assicurare, la tariffa è quella, capito? E io pagavo poco, addirittura perché avevo la patente superiore, capito, di assicurazione con la macchina. Ma pago una cazzata. Adesso sono in prima categoria e pago 150 euro, ma 160 che abbiamo aumentato ogni 6 mesi. Sì, anzi ti dirò di più, Natalia, all'epoca quando avevo il motorino era il ciclone, o come si chiamava, super ciclone. L'assicurazione, nota, non era obbligatoria, però facendola costava talmente poco, erano tipo 50.000 lire all'anno, che ho detto, metti che un pedone mi si butti sotto le ruote, metti che mi scappi un freno, che mi scappi la frizione, qualsiasi danno io possa fare, mai si veda, però era ragionevole, capito, erano 50.000 lire all'anno, cioè... E poi invece è diventato un incubo, tu pensa che negli anni 90, no, penso forse, vabbè, fine 90, inizi 2000, c'era un'assicurazione, sai, di quelle tipo banca, tipo Unipol, che mi aveva chiesto per un cinquantino, mi aveva fatto tipo 700 euro di preventivo, solo di sì, solo per dire, ma voi siete scemi, matti nella testa proprio. Perché altre assicurazioni invece, magari non 700, però sempre 400, alla fine era una follia, 50 non conveniva più, hai ragione. Infatti poi avevo preso molto, sempre molto un po', 250, 400, lo scooter 125. E infatti non ne vale la pena 50, adesso ti fanno pagare così perché c'è l'obbligo di assicurarlo. Quindi mentre... Vabbè, perché loro sono avidi di, giustamente, anzi proprio perché c'era l'obbligo, soldi gliene sarebbero entrati molti, comunque potevano abbassare i prezzi, invece no, visto che c'è l'obbligo ti spennano, perché tanto dice il veicolo o non lo usi, poi adesso aspetta che hanno studiato un'altra cavolata, se non è una bufala, stavano dicendo che l'assicurazione è obbligatoria anche se... Tipo lo lasci fermo in certe aree, può essere aree tipo condominiali, cortili condominiali, parcheggi condominiali, è una cosa del genere, forse è relativo anche, che ne so, se la macchina, che ne so, si incendia, prende fuoco, non avevo sentito una cosa del genere, però non ho approfondito perché tanto noi parcheggio condominiale non ne abbiamo, allora ho lasciato perdere, ti risulta? E che mi risulta? Deve essere obbligatoriamente assicurata, anche se è in un posto chiuso. Ma anche privato, cioè se è un garage mio privato, inaccessibile, deve essere assicurata. E la responsabilità civile contro chi ce l'ho, se è in casa mia la macchina. Beh, purtroppo è così. A me stanno rendendo la vita difficile a tutti. Ah, quindi non è a dire sospendo l'assicurazione, che ne so, in inverno, in estate, perché la lascio 3 mesi ferma nel mio garage, niente, devi pagare e appellarla in... Ma già capito? Sì, ho capito, sì. Se dicono non posso chiuso in qualsiasi posto, anche se chiuso deve essere assicurato il mezzo. Sì, no, veramente, hai detto bene, guarda, stanno rendendo la vita difficile alle persone, perché cioè, quando non arrivi alla fine del mese e ti tassano e tartassano, cioè alla fine uno davvero fa una strage, come succede certe volte in America soprattutto, che lì sono tutti matti e tutti armati poi. Non lo so, boh. Antone, dici la tua. A me già mi sono arrangiato, cioè quello scooter lì, 4 ruote, non c'è bisogno di assicurazione, il mollo è un casco proprio, ma con casco c'è bisogno. Devo solamente farmi la mia passeggiata, posso andare nelle piste ciclabili, tipo quella che l'ho fatto in Milano, scritto qui parlo al centro, scritto qui. Sì, ma non puoi andare su strada perché non ha la targa, hai capito? Devi andare sul marciapiede, devi andare su strada, non ci puoi andare, mica. Perché se vai su strada e ti cuccano, sono cavoli tuoi. C'è il marciapiede per arrivare fino allo spiro, qual è il problema? Esce già a piedi, esce in strada, tutti i giorni. Si fa tutta la discesa di via Carlo Felice, la salita addirittura. Tutti i giorni, non ho mai detto niente, c'è un sacco di gente che sta uscendo con, addirittura uno esce, l'ho visto con la carrozzina modificata e c'ha il pezzo di davanti di la bicicletta, figurati, cazzo, ma non sai quanto cammina quella cosa, un treno ragazzi. Sì, ma non si può usare, ci sono davanti alla scuola, perché un mezzo per invalidi devi usare il marciapiede per andare su strada, non ci puoi andare perché la macchina, la macchinetta non è targata, hai capito cos'è il discorso? Tutto normale alla prima lezione di... E per andare su strada deve essere targata e assicurata. Ma io invece voglio passare. Se no non ci puoi andare. Tu che mi alleggi. Ho capito, Quindi vabbè, vuol dire che c'è il soldo di piste ciclabili, no? Hanno fatto lui, ma a destra, ma a sinistra. Poi c'è il pezzo che... in pratica è tutto a bici, ho fatto la pista ciclabile lì fino allo spi, quindi io sono tranquillo. Sì, è un casino, un casino. Ma pensa che mamma, diciamo qualche anno fa, quando ancora, anche adesso le piacerebbe, voleva quello della TV, UFO, sempre quei mezzi elettrici per invalidi, però quello chiuso, quello bianco-azzurro, che sembra dei vigili urbani. Completo, mi c'è anche l'allarme, il coso, bellino, mi c'è il baule per portarti la spesa, solo che mamma, no, a parte che te lo fanno pagare quanto un'utilitaria usata, no? La mamma non ha i riflessi per usare un mezzo del genere, capito? Si schianterebbe alla prima uscita. Figura, poi devi andare sul marciapiede con quelle macchinette lì che non sono targate, non è che puoi andare in strada come un mezzo normale, no? Ce l'aveva Luciano, quell'amico mio, che non poteva più camminare, era diventato invalido al 100% e aveva quella macchinetta lì e la usava nel marciapiede. E vabbè, comunque non fu combattuto, visto che a Roma i filmati non è che viaggia nel marciapiede, viaggia in qualsiasi punto, anche in strada addirittura. Può andare nella zona ZTL, può entrare, io posso andare tranquillamente in piazza Castello quando è chiuso tutto, capito, comunque. Quindi già si possono usare, capito? Detto per forza che devi salire in marciapiede, no? A vera guai, a ammazzare quelli che sono in via Roma. Ho visto il filmato, ho visto, già viaggiano nella tua cittadina, non di certo il bando del telefono, sono sperato il mio telefono. Ma io li vedo andando sempre sul marciapiede, con le macchine. Stanno facendo in qualche certi paesi del sud, allora certi sindaci, come hanno sentito l'idea, sì, facciamolo anche a Milano, 15 orari, cioè manco la prima ti tiene, cioè come spunti sei già a 20, sei già in divieto, come spunti in prima. Ma come fai? Allora vai a piedi, fai divieto pedonale, tutto il centro, almeno la gente è costretta a va a piedi. E vai sulla Budi che si deve camminare a 30. Che la mia non ci va neanche a 30. Sul serio? Non sto scherzando, ho visto il limite a 30. Sulla Budi. Non me lo dire, ma per caso per lavori, perché ci sono cantieri aperti a, di lato. E come si fa? Cioè, finché al centro, via Brigata Sassari, via Cagliari, 30 forse lo posso capire, sì, 30 è accettabile. Ma sarebbe il colmo che facciano tutta la, ti immagini tutta la Budi a 30? Cosa? Cioè, vabbè. Marco, vai sulla Budi e poi mi dici dove è, Natalia, avevi ragione. Sono andato e ho visto il cartello a 30, che ci sono matti, ero con mia moglie. Guarda, sta peggiorando tutto, tutto sta peggiorando, tutto. Per esempio a Platamona non puoi più andare ai lidi, al mare, in certe discese a mare, tipo, io lo ripeterò all'infinito perché mi rode troppo, qui in Pettine c'era un bello spiazzo con tanti parcheggi, niente, l'hanno ridotto a una micro rotatoria da due parcheggi e non stanno invalidi, tutto il resto hanno fatto lo stazzo per le pecore, con le canne, non si sale visto. Se ti vuoi mettere bordo strada lungo la litorana non si può fare, perché non so se abbiamo messo guardrail o roba del genere, avevo visto delle cose che prima non c'erano, stanno vietando tutto, tutto. Cioè, se devi andare male dove vai? A meno che non sia una cosa pilotata, in modo da farti andare tipo al Lido della Marina di Sorso, magari non so se sia a pagamento il parcheggio, non so, per favorire gli amici degli amici, capisci a me? E quindi la gente è costretta tipo andare lì e usufruire quindi dal bar, dei servizi locali, capito? Se no non c'è spiegazione. Mi sto dicendo che stanno rendendo la vita, non dico impossibile, qua, non difficile, impossibile. Ma ti pare ne devono togliere i parcheggi e ti mettono il divieto se ti metti su al motostrada, non ti puoi mettere perché ti mettono il divieto. Adesso Antari, prendila col beneficio del dubbio, io non so se tu sei passato sulla litoranea tra Sassari e Sorso, però l'ho vista diversa, diversa. Guarda, se non erano strutture temporanee, io credo di aver visto, d'altronde non guidavo io, quindi era maggior umido, non ci stavo pensando, ma credo di aver visto come delle specie di sbarre, come delle transenne messe di lungo ai bordi per non parcheggiare. O erano strutture temporanee perché stavano facendo lavori, oppure le hanno installate fisse, quindi non puoi manco più parcheggiare a destra lì o a sinistra. Insomma, tutto vietato, è una cosa allucinante. Guarda, rispetto agli anni 70, poi se va in piretta non ne parliamo, tutto vietato, se tocchi la sabbia, adesso te ne dico una. Allora, mio cugino lavora e vive in Irlanda, era andato in questo caso a Alghero, a Maria Pia, no? A Maria Pia. Stava facendo giocare il bambino con la sabbia, scavando una buchetta con la paletta, una paletta di bambino, non era una pala da cantiere. Beh, è passato uno dei bagnanti, dei residenti sicuramente, che per farsi bello ha detto, però guardi, non faccia buchi in spiaggia che passa la forestale per farebbe il male. E lui giustamente ha detto, sì, ma tanto è sabbia, si può richiudere il buco, cioè, non stiamo scavando nel cemento. Capito? E comunque di questi episodi ne ho visti anche altri, cioè di gente locale che come arrivano i turisti fa lo sborone dicendo che i turisti sono tutti cafoni, hai visto i giornali, i cafoni che arrivano col tender in spiaggia, quello vabbè si può capire. Ma stanno criticando sempre i turisti, cioè qua al turista in poche parole li fai passare, la voglia di venire in Sardegna, perché fai una buca nella sabbia. La sabbia poi non è che già hai capito, no? E al giornale ti fanno il verbale. Vabbè, adesso non sto a entrare a farti altri esempi, però non puoi fare nulla, c'è manco giocare con la sabbia con tuo figlio che arriva sia il residente che fa lo sbruffone, no? Come dire, questa è zona mia, fatela bravi, non va bene. Addirittura era successo che a Maddalena, aspetta, cosa è successo? Praticamente si è avvicinato un tender, non so se fosse francese o corso, no? Per prendere delle persone. Sì, sarebbe vietato, però finché ti avvicini piano piano, con molta, molta cautela, chiudi un occhio, chiudi anche l'altro occhio, e sì, li hanno aggrediti verbalmente. E quasi parandoti a muso duro anche le signore, quello per distanziare una signora che gli è venuta a muso, l'ha allontanata con la mano, ma non è che gli ha dato né pugni, è arrivato il marito, gli ha dato il calcio volante al tipo francese. Cioè, praticamente li passi dalla ragione al torto. E quindi che idea si possono fare i turisti quando vedono gli indigeni locali che fanno gli sbruffoni, che ti servono, fanno osservazioni su tutto, per tutto, perché noi viviamo il turismo, non dimentichiamo che viviamo il turismo, quindi se cominciamo a fare le partacce a tutto quello che fanno i turisti, ai turisti cafoni che mettono una ruota sulla sabbia, perché lì la esagerano anche molto, e quelli che si avvicinano magari col gommone o col camotto, magari hanno motore spento, no? Fanno troppe storie. Ma non puoi andare manco a pescare, se tu vai a Alghero non ci puoi andare a pescare, perché se non sei residente ti sequestrano tutta l'attrezzatura e ti mettono un vermalone che non finisce più. Ah, pure, ascolta, è per caso quella zona all'estrema sinistra, hai presente le bombarde, ce l'hai presente, no? All'estrema sinistra, tutta quella zona di Pineta, che sicuramente è giurisdizione di Alghero, anche lì, tutto vietato, tutta zona di Alghero, comune di Alghero, tutto vietato. Per andare a pescare devi essere residente, se passa la forestale sono cavoli acidi, è successo a Gianni, non più non chiediglielo. Il cacchio, quindi per dire, io non ci vado nemmeno, quindi pesca sub niente, pesca cana niente, è uno schifo, vabbè. E ascolta, infatti quando fanno tutti questi divieti, mi pare che i ricci non li puoi più pescare se non sei tipo, vabbè, la notizia può essere faziosa anche, no? Che non li puoi pescare se non sei professionista, ma vale solo in certi periodi dell'anno, tipo quando c'è quel periodo di protezione vabbè, già hai capito, della riproduzione o com'è? Non ho capito cosa stavi dicendo, professionista, anche se professionista sono solo quelli che pescano col peschereccio. Allora, ti spiego, io ho letto una notizia di sfuggita, non ho approfondito, però diceva che ricci adesso, se non sei o titolato professionista, non li puoi pescare come privato, come bagnante qualsiasi. E mi chiedevo se questo limite fosse solo nel periodo della riproduzione dei ricci. No, ho spiegato più volte. Per pescare i ricci devi prenderne un certo numero, devi prendere, non di più, perché se ti trovano che ne hai uno in più, so cavoli tui. No, però in teoria è sempre libera. Certo, nei limiti del lecito, in teoria è sempre libera, no? Perché ho letto un articolo, non ho capito se era riferito a qualche limite tipo Alghero, cosa ne so io, forse Alghero è riferito, guarda, l'ho letto, è risfuggito, ho letto solo il trafiletto, non ho letto il testo, però davvero tante limitazioni, ma tu immagini un turista arriva là fuori, si fa il bagno, vede dei bici, li prende, trova un polpetto, che insomma, magari preso a mano, lo prende e gli fanno la festa. E se ti sgamano, se sei turista che anche locale, se ti sgamano che porti via sabbia o cantoni lì, o ciottoli, o conchiglie, guai. Ehi, guai, no, non si può fare più nulla. No, quello per i ricci già è libero, però non devi superare un certo numero. Non mi ricordo quale sia. Mamma, ci ha preguidato meglio di papà. Però i ricci già li puoi pescare, non è. Però un certo numero, più di quel tanto no, non è che ne vuoi una cessa, no? Se sta ciappando con una cessa, si buttano le chiavi in mare. Andiamo ad occupare come quelli di Polozzolo, sì. Se abbiamo una barca andiamo a pescare. Oh, va bene, Natali, dici, cioè, allora scusa, ma a persona, allora va in 5 persone, cose già fatte, 100 ricci ciascuno, 500 ricci in totale. Boh. Ma devono essere separati, dimmi, se li trovano insieme, no, per ogni persona ci deve essere un numero che puoi prendere, capito? Non li puoi mettere tutti insieme, se no ti fanno il balone e ti sequestrano tutto pure. Non dice, ma io dice, queste me le devo mangiare io personalmente. Te le immagini, poi arrivano, magari c'è chi li svuota in spiaggia anche, mi dici, chi li svuota lì nelle calette un po'. Poi arriva un controllo, te li immagini, te ne vedono pochi di polvere, dice, ma come mai allora c'è un quintale di bucce qua, come mai? Fresche, buttate fresche, fresche. Sì, sto vedendo che una cosa, se a noi ci hanno detto cosa, la forestale ci ha fermato a noi, perché ci avevamo il camper troppo vicino alla spiaggia, ma dimmi tu. È andata bene la volta. Sì, anche per il campeggio, stessa cosa, guarda che se tu vai a Ximano vedi cose incredibili, vedi una baraccopoli, un campo nomadi, vedi, però rispetto a una volta è tutto, se è troppo restrittivo, poi rischi il penale, ormai rischi il penale per tutto. Che ne so, peschi, sbagli di un metro, sei in area protetta, rischi il penale, campeggi fuori coso, non lo so. Sto dicendo che non sembra vero, di tutti i colori ce ne sento. Poi naturalmente è penale, non ti fai nulla, però ti danno la sanzione penale, comunque sempre da pagare, che è molto, magari molto più salate rispetto a una normale multicina del cavolo, capito? La convertono in sanzione penale, quello che è. A me mi volevano multare una volta 2000, non mi ricordo se c'era, se erano 2 milioni di lire o 2000 euro, non mi ricordo se era passato il 2001 o prima o dopo, vabbè, era un giorno di tipo Platamona, adesso non mi ricordo che lido è, io mi sono allontanato parecchio, pensa che avevo il maialino a benzina, quindi ci sono uscito in... Cioè io guardavo la riva, non vedevo la riva, vedevo le persone che erano di microscopici puntini, sembravano meno di formiche. Passa, insomma, passa la motovedetta e mi voleva dire, sa che distanza è? Ho detto, guardi, io vedo, non vedo manco più la riva, cioè, e dice, lei è a 170 metri. E lì cosa gli vuoi dire? Cioè, io non c'ho il metro appresso, come me la misuro la distanza? A parte che avrebbero fatto anche osservazione, se anziché a 500 eri a 450, no? Ci siamo capiti. La battuta l'avrei fatta, però non... guai. Insomma, poi gli ho detto, ma io guardi, io non mi sono reso conto. Siete, insomma, alla fine avevo il fucile carico, ma sai che 170 metri, cioè in lì non andavano i bagnanti stavano lì a 5 metri dalla riva, nemmeno le bagnasciuga stavano. Insomma, dice, vabbè, la prossima volta sia più attento. E anche lì la battuta mi veniva voglia di farla. Mi porterò il metro da casa, il decametro. Lo attacco all'ombrellone e mi allontano. È quello che l'hanno fermato i carabinieri, gli hanno trovato odore di alcol. Abbiamo bevuto, io non ero con voi. Ma vedi l'atteggiamento, Natali, io non ho fatto in quel frangente, se no mi beccavo 2000, non mi ricordo, te l'ho detto, se euro o lire, non mi ricordo in che anno era, però lì se fai lo stravagante la multa è assicurata. Se invece, perché io proprio non stavo manco pescando, stavo guardando il fondale così, tanto per non avevo voglia di coso. E poi mi stavo giocando con il motorino elettrico, a benzina, no, il maialino. E quindi, insomma, sono stato molto tranquillo, no? E infatti multa non me l'hanno messo, hanno detto, vabbè, sia più attento la prossima volta, eccetera. Però lì se fai la battutina, che magari ti viene da farla, è fatta, il verbale è assicurato. E poi verbaloni sono, sono verbali, perché sia la capitaneria, se ti ferma la forestale, quelli, se ti mettono la multa a quelli, è bella, te ne lecchi anche i baffi di quanto è salata. Sì, quello in quel caso erano i carabinieri, era la motovedetta dei carabinieri, e c'era il solito poliziotto buono e poliziotto cattivo, no? Uno era più, più accomodante, no? Quello che poi era quello che comandava, di grado superiore, si capiva la... Invece l'altro stava dicendo, ma il signore è grande vaccinato, invece... immagini la fatica ci può. Ma vabbè, no. No, no, guarda, io quando c'erano controlli, giustamente se vogliono lo sai, no, se vogliono la multa assicurata. Se fa lo stravagante la multa assicurata, se invece un po', guarda, io sono studente, per me è un problema, ho detto, sarebbe un problema, non saprei, ho detto, nemmeno come pagarli. Infatti poi non avevo pagato, a parte in testato non avevo niente, quindi potevano anche farmela, ma invece certi vanno a fare le battutine. Capito, e invece magari può essere un problema, dai. Vabbè, già siamo capiti. Natalia, io adesso stacco. Antonè, devo staccare, devo fare la lavatrice, se no si fa tardi. Tutto, dai. Vabbè Marco, dai. Buon tutto, anch'io me la chiudo che è tardino. Ci sentiamo alle prossime. Ciao Antonello e ciao chi ci fosse in ascolto. Cercate di entrare più spesso che qua sta morendo la situazione. Alle prossime. Un attimino che riprendo. Ah Natalia, un'ultima cosa. Prima che tanto adesso inizia il caldo, a parte avete notato il caldo che c'è? Cioè siamo tra metà e fine gennaio, un caldo fuori del comune. E speriamo che, che l'estate non sia proporzionata all'inverno, perché sennò sarà un caldo boia. Cioè io stamattina sono uscito, mi sono dovuto mezzo denudare dal caldo che c'era, col sole che picchiava, sono dovuto stare quasi in maglietta. E vabbè. No, dove volevo arrivare? Ti volevo chiedere, siccome mi sta mettendo in croce mamma, vorrebbe che tu le dessi la ricetta precisa della fainé. Perché me lo sta sempre chiedendo, ricordati quando senti Natalino, va bene, mi vuole sapere tutto, le proporzioni giuste, quanti grammi di sale, quanta farina, quant'acqua, tutto quello che è. Non so, se riesci a scriverla me la mandi tramite messaggio. Vabbè, non c'è problema. Se vuoi ti do anche la farina di ceci, che ne ho un pacco e 200 grammi anche. Anche quando fai il bucato, vuoi? Ne ho. Sbaccianti naturali, perché... Non me ne posso nuda, perché il forno mio non va bene. Sì, poi al limite a qualche cosa, tipo i tempi di cottura. Conta che noi purtroppo abbiamo il forno grande fuori uso, perché in realtà qua non l'abbiamo mai usato, è stata eliminata la vera e propria cucina, cioè abbiamo un piano cottura usato sopra la cucina, no? E stiamo usando il fornetto elettrico, usiamo il fornetto a campana e il fornetto elettrico, ok? Sì, una pizza ci sta, però è a filo, quindi dovrei usare tegliette piccole tipo quelle mono, quando tu la prendi da usai, tipo, no, quello che è, le tegliette piccole, quelle ci dovrebbero entrare, cioè la piccola, la media, la grande, la piccola ci dovrebbe entrare, vabbè, quando puoi, così magari la provo a farla a casa, vediamo se mi lascia la testa in pace mamma. Sì, vabbè, la devi lasciare riposare 4 ore però, e la devi schiumare prima di metterla, dopo 4 ore li togli la schiuma, quella schiuma lì la devi buttare via, perché fa questa schiuma e la devi schiumare. Sì, sì, quello l'avevo sentito al baracchino in diretta quella volta, quindi quello poi se lo vuoi, vabbè, comunque tu ricordati le proporzioni prodotto, acqua, olio, tutto quello che c'è, l'olio vabbè si mette sulla teglia, già capito. Magari il sale, la quantità giusta di sale, perché ho preso tutto a grammi, per non sbagliare. E metti un cucchiaino di sale e sei a posto. Allora sono 300 grammi di acqua per ogni etto. Ecco la dose. 300 grammi di acqua per ogni etto di farina, così è, aspetta che così me lo segno al volo, che in realtà è già fatta la ricetta. Un cucchiaino di sale, così è. Il signore in mezzo all'impasto lo mette. Quando i nostri capelli sono sotto stress, i legami dei capelli sono... E anche un po' d'olio. Nuova se glielo vuoi mettere. La teglia è che vuole bene oliata. Protegge i legami dei... Sì, sì, quello l'ho sentito, anche se qualcuno, vabbè, è contrario, però io ho un goccino, ma dire una goccia, proprio una goccia di oro l'avrei messa, una goccia. Come dire, un cucchiaino d'olio, proprio un cucchiaino in piccolo in tutto l'impasto. Perché tanto poi anche quando vai a vedere, quando la prendi, cioè, ti accorgi che un po' di olio lo contiene, anche in superficie vedi che c'è olio, che rimane unta leggermente. Tanto pure olio lo mischi all'impasto quando fai, quando metti l'impasto nella maglia, si mescola l'olio. Poca, quanto siete in ruota quando entrate, per esempio, tipo 2, 3 o di più o di meno? Sì, anche di più certe volte, 4, 5 già ci siamo sempre. Beh, allora diciamo che non vi potete lamentare, magari non entrerete tutti i giorni, però insomma, ok, vabbè, io quando potrò entrerò, quando ne voglio anche, se volta più, mi dedico ad altro. Ok, ciao Natalino, allora, grazie della dritta, ciao Antonello, che l'abbiamo lasciato anche troppo in bianco, e ci sentiamo quando capita, ok? Buona serata a tutti e ci sentiamo, ciao. Ciao, ciao Marco, ciao alle prossime. Ciao Marco, ciao Natalino, ci sentiamo buonanotte e alle prossime, eh? Ciao Antonè, ciao, anch'io sto chiudendo. E io, ok, va bene, ci sentiamo domani al limite. Ok, statevi bene, ciao ciao. Ciao ciao.